Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Giovanni Bonitti. Qui, nel nostro mondo, si è stabilito che in un solo posto lontano dalle guerre un uomo possa ucciderne un altro senza essere giudicato come omicida. Questo posto è un quadrato i cui lati sono per regolamento tra i 4 metri e 88 e i 7 metri e 32. È uno spazio ristretto, delimitato da delle corde. Viene chiamato ring. Sopra il ring, a un metro d'altezza, due uomini si prendono a pugni. È un gioco, uno sport, una forma d'arte. Jack Dempsey, Sonny Liston, Primo Carnera, Muhammad Ali, Mike Tyson. All'inizio della loro carriera, nessuno di questi e degli altri campioni che sono diventati famosi sapevano che avrebbero raggiunto il successo. Erano come quelle migliaia di pugili che per pochi soldi passano la loro giovinezza e parte della loro vita d'adulti sul ring. E quando scendono, spesso malconci, devono inventarsi da capo un'esistenza. Che cosa porta allora un uomo a dedicare, a sacrificare il proprio corpo e in parte il proprio spirito al pugilato? La scrittrice Joyce Carol Oates ha scritto queste parole. Il pugile incontra un avversario che è una distorsione onirica di se stesso. E una volta che si comincia, è difficile smettere di sfidare se stessi e i propri demoni. Lo capiamo già dalle parole di uno dei due protagonisti della storia di oggi, a Destini incrociati. Mi piace stare in trincea, battermi almeno 20 volte all'anno, perché il pugilato genera dipendenza. Se sei troppo tempo senza combattere, ti viene la scimmia. Il pugile, prima ancora che con l'avversario, si scontra con il proprio io, con le proprie paure, con i propri incubi, col proprio passato. La vita del ring ti fa capire presto che è pericoloso mentire a se stessi. I grandi pugili hanno uno spirito nudo. Forse anche per questo, prima la letteratura e poi il cinema, ne sono rimasti così affascinati. Claudio Moretti, giornalista esperto di cinema, sottolinea così questo rapporto. Il cinema, nel corso degli anni, è entrato nelle viscere del pugilato visualizzando e romanzando il senso di questa passione. De Niro, Paul Newman, Alain Delon, molti mostri sacri della recitazione si erano misurati in ruoli pugilistici. Vien da pensare ad un'esigenza quasi intima degli attori stessi. Non sia allora dissimile il lavoro dell'attore da quello del boxeur? L'attore, per interpretare il personaggio, sfida se stesso in cerca di un suo alter ego. Solo che gli attori non rischiano la vita, non rischiano di passare anni su una sedia a rotelle o di non ricordarsi la propria data di nascita per un gancio sinistro che non si è riusciti a schivare. I pugili, fin dal primo momento che indossano i guantoni, sono costretti a imparare a conoscere il proprio corpo, a capirne i difetti, la forza, l'istinto. È un giorno freddo a Milano. È un giorno d'inverno del 1989. Siamo su un tram che sferraglia lungo Viale Pasubio. C'è un ragazzo alto, grosso, sta in piedi, appeso a una maniglia che si piega sotto il suo peso. Perché a dirla tutta, quel ragazzo non è solo grosso, è un ragazzo grasso, quasi obeso, e odia il proprio corpo. Gli amici lo chiamano Gabibbo. La quieta immobilità dei pendolari che tornano dal lavoro stona con la sua agitata sensazione da cocaina. Quel ragazzo si è appena fatto, come tutti i giorni del resto. Il suo nome è Giacobbe Fragomeni. Giacobbe Fragomeni. A un certo punto il suo sguardo si posa su un ragazzo. Ha una borsa in mezzo ai piedi. Il corpo del ragazzo è atletico, le braccia e le gambe sono disegnate dai muscoli. Giacobbe, detto il Gabibbo, guarda la propria pancia. Si vergogna con se stesso. È un gigante flaccido, un Golia con i muscoli intorpiditi. E senza sapere che è importante, compie il gesto più importante della sua vita. Un giorno ero su un tram, tornavo dalle mie cose. Stavo tornando a casa e vedo un ragazzo con la borsa della palestra. E gli faccio a lui, vabbè, allora ti vengo a trovare, mi sa che vengo a iscrivermi. Quando correvo per andare a prendere il tram facevo fatica, allora dicevo, minchia che merda che sono diventato, no? E allora sono andato in palestra a fare sport, ma io ero andato in palestra per dimagrire, non per fare il pugile. La palestra in cui va il ragazzo del tram è la mitica Doria di Milano. Fondata nel primo dopoguerra da Spartaco Doria, ex pugile dilettante e poi maestro, è il tempio del pugilato milanese. Da qui sono usciti ben 6 vincitori di titoli mondiali come Rocky Mattioli e Kamel Bau Ali. Ci sono stati dei periodi in cui si allenavano contemporaneamente qualcosa come 80 professionisti. La Doria è un seminterrato semplice e grezzo. È un luogo deputato alla preparazione delle battaglie. I suoi muri odorano di fatica e di sudore. Le vere palestre sono così. Le belle palestre sono quelle brutte. I ring senza imbottiture, gli imbuti per la saliva incrostati, con i tubi che li collegano ai secchi di plastica, quasi fossero reperti di archeologia industriale. Non cercate gli sgabelli per riposarsi, perché durante gli allenamenti, tra un round e l'altro, i pugili non si siedono. A Las Vegas, la palestra di Johnny Tocco era dietro a un benzinaio. Aveva una moquette sporca e grassa, sigari spiaccicati e un cesso di veltro nell'angolo. Eppure andavano tutti lì, da lì a Tyson, passando per Julio Cesar Chavez. Ci si respirava il tanfo del passato, che però garantiva il futuro. La Doria si trova in via Mascagni, nel centro di Milano, a 2 passi dalle università e da San Babila, da via Monte Napoleone. Come una piccola cicatrice sul viso truccato di una nobile signora. A 6 o 7 chilometri da qui c'è il quartiere dello Stadera. Sono pochi chilometri, ma con più di un mondo in mezzo. È periferia vera. È qui che nel 1969 suona il primo gong. Nasce Giacobbe Fragomeni. Giacobbe viene dalle case popolari di via Barrili. Tutto il quartiere nacque intorno ai casermoni costruiti a partire dal 1926 dal fascismo. In un'area allora di aperta campagna, l'OIACP tirò su 1.886 alloggi per le famiglie povere e gli sfrattati che abitavano nelle baracche del comune in zona ticinese. Il regime chiamò inizialmente il quartiere 28 ottobre, in ricordo della marcia su Roma. Ma gli abitanti, che erano quasi tutti operai, rifiutarono il nome e lo ribattezzarono quasi subito Baia del Re, ispirandosi alle imprese del capitano nobile al Polo Nord. Solo nel dopoguerra compare il nome Stadera, che nasce da una pesa pubblica e da un'antica osteria oggi scomparse. Già dalla fondazione, lo Stadera ospitava fasce di popolazione emarginata. E di certo con il progressivo degrado socio-edilizio che ha colpito il quartiere nel corso dei decenni, le cose non sono mai migliorate. Per Giaco, almeno finché è un bambino, i problemi non nascono però dalla strada. L'inferno ce l'ha in casa. E lui in casa cerca subito di starci il meno possibile, anche a costo di saltare il pasto. Un suo vicino di casa si ricorda del piccolo Giacomo. Giacomo, quando era piccolo, aveva 8-9 anni, veniva giù e con questi capelli, tutto lui piccolino, cioè ciuttelli, allora veniva, fece falegname, c'ho fame. L'inferno di Giacobbe è abitato da un diavolo alcolizzato e violento, suo papà. I ricordi di Giaco sono lucidissimi, anche perché spesso era costretto a guardare le esplosioni del padre da inerme spettatore che non può intervenire, che può solo guardare e lasciare che le scene a cui assiste gli si conficchino dentro il cervello. Le vittime dell'ira paterna, infatti, sono di solito la madre e le sorelle. Qualche anno fa, Giacobbe, seguito da una troupe televisiva, sale per le scale del suo vecchio palazzo e ricorda, sente anche i suoni e i rumori. Rivive la colonna sonora della sua infanzia. In questi pianerottoli, mazzate, grida. Quando le mie sorelle arrivavano con 10 minuti di ritardo, pigliavano le botte. Io arrivavo alle 4 o 5 della mattina e mi dava le carezze. Era fuori di testa perché gli piaceva bere, giocare ai cavalli e perdeva tutto. Quando perdeva, si incazzava, giustamente veniva a casa e se la pigliava con noi, con mia madre. Mia madre era malata, però riusciva a sopportare comunque le malefatte di quell'uomo. Un giorno mi sono ribellato e ci ho litigato con lui. Quando Giacomo parla del padre, la sua voce cambia, diventa orgogliosa, come se fosse pronta a rispondere a una sfida o a un attacco. Il diavolo è morto da anni, ma se tornasse, Giacomo sarebbe pronto ad affrontarlo. E forse non gli va giù che se ne sia andato senza rendersi conto del male che ha fatto. E poi non vuole dimenticarsene. Vorrebbe che in qualche modo ci fosse ancora per assistere a tutte le battaglie che il figlio è riuscito a vincere, malgrado... Giacobbe sull'avambraccio ha un grosso tatuaggio di un diavolo. Quel disegno, ogni volta che Giacomo colpisce su un ring, è costretto a sua volta a colpire. È il primo testimone della sua forza. Se gli chiedi cosa rappresenta quella figura che si è stampato sulla pelle, Giacomo risponde così, guardandoti negli occhi. Questo è mio padre. Quando era ubriaco, si incazzava, era così. Questo è il ricordo di quella merda di mio padre. Mientras cruzaba los deditos tra la puerta, tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Lasciamo per un attimo i tempi dell'infanzia di Giacomo e torniamo a quei giorni d'inverno del 1989. Quando Fragomeni entra per la prima volta alla palestra Doria, quasi sbatte la testa, tanto è basso il soffitto. Non sa ancora che questa sarà la sua casa per tanti anni a venire. Si sente impacciato, come un imbucato a una festa. Ma si accorge subito che questo posto per lui ha un senso profondo. Quando ho varcato la porta d'ingresso è stata una folgorazione. Ho provato una sensazione simile a quando ti innamori di una ragazzetta. Proprio una folgorazione. L'odore... Tutti i ragazzi che si allenavano, chi faceva i guantoni, il sacco. Giacomo è venuto in palestra per buttare via peso. Era un grassone, un ciccione, flaccido. Così lo ricorda il mitico Ottavio Tazzi, per tutti il nonno. Classe 1928, è uno dei più importanti allenatori di sempre. Tra i pugili che ha guidato sul ring ci sono 7 campioni del mondo. Allievo di Spartaco Doria, ne raccoglie l'eredità negli anni 70 alla guida della mitica palestra. Da sempre per tutti è il nonno. Perché con un fratello, con un padre, ci si può discutere, ci si può litigare, con un nonno no. Si sta lì a sentire cos'ha da insegnare e si impara. Tazzi è l'essenza della box. Lo capisci da come parla dei centinaia di pugili che ha allenato. Ti racconta qualche aneddoto su quelli che hanno vinto il mondiale. Ma non sono i titoli che gli accendono gli occhi. Il nonno parla più volentieri, commuovendosi, di quelli che hanno poco talento ma hanno il cuore del pugile. Di chi, se non ci fosse un arbitro a fermarli, sarebbe già morto 100 volte sul ring. Io mi ricordo di Paini, che era un perdente. Quando combatteva, Paini dava spettacolo. Io sono più affezionato ai Brocchi, perché anche loro hanno il coraggio di andare sul ring. Entrare nel ring non è da tutti. Mi ricordo un certo Callegari di Voghera, che tipo che era, faceva il diavolo a quattro pur di fare il match, perdeva sempre, e quando, le poche volte che ha vinto, mi godevo la felicità, era il massimo, perché aveva il cuore. Il cuore da pugile, soprattutto il resto. Senza quello non si va da nessuna parte. Per questo uno dei suoi campioni a cui Tazzi è più affezionato è Rocky Mattioli. Tazzi comincia ad allenarlo e nel 77 vince il mondiale dei medi junior. 20 mesi dopo mette in palio la corona a Sanremo contro il britannico Hope. È un incontro importante, ma per il nonno sarà soprattutto uno di quegli incontri che rappresentano l'anima vera della box. Uno di quegli incontri per cui ancora adesso gli scende la lacrima quando ne parla agli amici nel barettino in fondo a via Padova. Il palazzetto di Sanremo è stracolmo. Il match è cominciato da 15 secondi, quando Rocky scivola e appoggia il guantone destro sul ring. Sente il rumore di un ramo che si spezza. Mattioli si rialza e capisce subito. Si è fratturato il polso. Guarda Tazzi nell'angolo e poi continua il round facendo finta di nulla. Mattioli va avanti, ripresa dopo ripresa, combattendo soltanto con il sinistro. Tazzi capisce, vorrebbe interrompere l'incontro. Rocky con gli occhi lo prega di non gettare la spugna. Con un ultimo sforzo all'ottava ripresa, Mattioli rischia di mettere KO Hope con 3 sinistri di seguito, ma non ce la fa. Hope comincia a massacrare. Alla fine del nono round, solo il suo maestro e secondo padre, Ottavio Tazzi, riesce a impedirgli di tornare al centro del ring. Rocky, piuttosto che arrendersi, avrebbe continuato a combattere con una mano sola fino allo sfinimento e oltre. Quando Giacobbe Fragomeni arriva alla palestra Doria, si allena duramente per perdere peso, ma comincia anche a guardare tutti quelli che boxano. Un'idea comincia a martellargli nella testa. Perché loro sì e io no? Giacco non sa se ha del talento dentro i suoi pugni, ma la volontà e la forza di non tirarsi mai indietro fanno sicuramente parte del suo DNA. Giacco fa i primi passi sul ring, impara come si portano i colpi. Tazzi lo osserva senza mai rivolgergli la parola. Vede che è goffo, ma anche che ha coraggio e testardaggine. Da lontano comincia a studiargli il cuore. Poi arriva il giorno che Fragomeni ricorda come uno dei più importanti della sua vita. Il nonno. Lui è il maestro dei maestri. Agli esordi neppure mi cagava. Poi un giorno si appoggia alle corde e mi dice: il sinistro si porta così, il destro così. Gesù, era venuto da me e mi rivolgeva la parola. Così ho moltiplicato il mio impegno. Se mi parla, forse valgo qualcosa. Mi sono accorto di Giacco perché si allenava con costanza. Era serio. Ed ero colpito che uno di Stadera, amico di drogati, di galeotti o di morti per overdose, stesse riuscendo ad affrancarsi da quell'ambiente. Giacco non è solo amico dei drogati, c'è dentro a sua volta fino al collo. Nella Milano da bere degli anni Ottanta, in realtà è la solita minoranza che ha qualcosa a cui brindare. L'edonismo reganiano, termine pseudo-elegante con cui si intende una legge della giungla economica, in cui non c'è spazio per la solidarietà sociale, dilaga. Ognuno deve arrangiarsi e colmare il vuoto di valori che si è creato dopo le ideologie più o meno utopiche degli anni 70. Per alcuni, questo vuoto diventa la narice con cui aspirare la cocaina o il buco in cui infilare una siringa. Lo Stadera a Milano è uno dei quartieri più colpiti dai bombardamenti della droga, ma una via d'uscita c'è sempre. Lo scopriremo tra poco, a Destini Incrociati. Tieni duro perché dovrai lottare, perché il mondo non sa che tu ci sei. Tieni duro perché dovrai lottare, perché il mondo non Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati vi stiamo raccontando la storia del pugile Giacobbe Fragomeni e del suo maestro, Ottavio Tazzi, detto il nonno. È la storia di un ragazzo della periferia milanese che vive tra la droga e i fantasmi del suo passato. Ma un giorno Giacobbe, a 20 anni, entra quasi per caso alla palestra Doria, il tempio della box meneghina. Ci entra che pesa quasi 120 kg e con la droga che gli annebbia la testa. Quindi io non avevo lavoro, non facevo niente. Ho iniziato a pippare l'eroina, la cocaina, poi sono partito per il militare, sono andato fuori di testa, inizio ad ammazzarmi con l'eroina. Mi sono ritrovato completamente vuoto. Mia sorella non è che le vivevo molto. La più grande è subito, appena compiuto 18 anni se n'è andata. Quella piccola si drogava, anche lei se n'era andata, poi dopo è morta perché si faceva. Giacco ha ancora bene in mente quel periodo, di quando lui e gli altri tossici stavano appoggiati alle macchine di via Barilli come delle ombre, degli zombie. E poi da lontano arrivava lo spacciatore e per dei brevi attimi quei corpi ingobbiti e spenti si risvegliavano e saltavano su come grilli a chiedere una dose. Il saggista spagnolo José Bergamín una volta ha scritto: «Il coraggio aspetta, la paura si mette in cerca». Giacobbe comincia ad avere paura. Ha paura che la sua vita sia davvero solo questa, il destino di un tossico. Ha paura di fare la fine di suo padre. E la paura a fargli pensare che la box possa essere la sua salvezza. Un giorno mi sono guardato allo specchio e ho capito che se mi fossi dedicato solo al pugilato con serietà, avrei potuto fuggire, tenere fuori tutto il resto e sarei diventato il migliore. Giacobbe, l'ex Gabibbo, si rimette in forma. Tazzi gli insegna i trucchi del mestiere e gli fa perdere 30 kg. Giacobbe è sempre stato una macchina da pugni, un demolitore, un ragazzo che ha fatto della volontà il suo marchio di battaglia. Certo, era grezzo, ma la sua determinazione gli ha permesso di andare oltre. I primi tempi prendevo un sacco di botte, ma avevo la sensazione che quei cazzotti che mi piovevano sulla faccia fossero il giusto prezzo che dovevo pagare per tutte le stupidaggini che avevo fatto. Fu allora che si accese dentro di me la spia dell'orgoglio e decisi di tenere duro a ogni costo. Volevo riscattarmi, dimostrare a tutti di che pasta ero fatto. Mi sono messo d'impegno. Prima sono sceso a 90 kg, infine a 81. E con il peso di 81 kg, da medio massimo, ho iniziato la mia avventura pugilistica. Vincevo, vincevo e vincevo, li battevo tutti. Ma ero più interessato a dare una sistemata alla mia esistenza che a vincere incontri di pugilato. Comincia anche a lavorare. Fa l'asfaltista, alzandosi tutti i giorni alle 3 del mattino. È un lavoro duro, ma che gli permette di avere tutti i pomeriggi liberi per andare in palestra. Giacco delle sue giornate si è tenuto giusto qualche ora per dormire. Non vuol più sentir parlare di tempo libero. Lo evita come la peste, perché da quando è ragazzino ne ha avuto fin troppo e l'ha utilizzato per rovinarsi l'esistenza. Dopo 2 anni che combatte, Giacobbe ha già messo insieme una 50ina di incontri. Incontri che vince quasi sempre. Un match dopo l'altro, senza mai alzare la testa, Giaco, nel 93, finisce in nazionale senza quasi accorgersene. Per dirla tutta, lo scopre leggendo la Gazzetta. Io lavorando di notte, ci sono quelli che girano con la Gazzetta, i venditori. Dai, fammi leggere la Gazzetta. Io prendo sta cazzo di Gazzetta e dietro è tutto notizie. Campionati italiani, solite situazioni, però abbiamo scoperto un ragazzo, si chiama Fragomeni, e lo chiameremo in nazionale. Fragomeni in nazionale, ma in nazionale, big e buco gli amici, ci veniamo, ci ammazziamo, su di giù, mi chiamano il 6 gennaio in nazionale veramente. Nel 94 Fragomeni vince il titolo italiano dilettanti dei pesi massimi. Giaco ha 25 anni e si è rimesso sui binari giusti, ha tutta una carriera davanti. Quel titolo per lui è un successo, ma è anche una tappa della sua esistenza. Non ha tempo per fermarsi a riflettere su quello che ha ottenuto, perché il suo carattere e la sua giovane età gli impongono di guardare avanti. Per Tazzi però è diverso. Mentre Giaco combatte per il titolo, concentrandosi su come portare il jab e tenere alta la guardia, il nonno lo guida e lo incita dall'alto dei suoi 65 anni fatti di box. E mentre Giacobbe saltella sul ring, il nonno non vede solo un atleta, ma anche quel ragazzo flaccido e goffo di qualche anno prima. Ricorda la sua timidezza e la sua vita quasi spezzata. E si commuove per lui, per il cuore del pugile. Ancora oggi, ad anni di distanza, Tazzi non riesce a parlare di quell'incontro senza che gli si spezzi la voce. Io ho vinto 7 campionati del mondo e non ho mai pianto. Quando ho vinto il titolo italiano da dilettante ho pianto, perché mi ha dato commozione. Pensando ai sacrifici che ha fatto questo mondo. Per guardare ciò che tu mi fai vedere. Il mondo insieme a te è come rinascere, vedere finalmente che rischiavo di perdere mille miliardi e più di cose. Se tu non mi avessi fatto il dono di dividerle con me. La seconda metà degli anni 90 porta Giaco ad altri successi. Nel 97 vince a Minsk i campionati europei. Nel 98 è argento ai mondiali e il suo rapporto con il nonno diventa sempre più forte. Per lui, che spesso aveva seguito solo il buio, il nonno è una guida capace di mostrare i lati migliori della vita. Tante volte, vedendo a pezzi il suo padre putativo dopo una giornata di allenamenti, Giacobbe gli dice di andare a casa, che ci penserà lui a chiudere la palestra. Tazzi vuole un bene dell'anima all'ex Gabibbo. Il nonno parla agli amici della bontà di Giaco con un misto di orgoglio e preoccupazione paterna. Ha paura che torni vulnerabile se dovesse di nuovo incappare nelle avversità dell'esistenza. Ma Giacco è cambiato. Ha lottato e sofferto troppo per diventare quello che è ora. Con la testa, i pugni, il sangue, ha domato il suo destino. Di sicuro è più facile lasciarsi andare che resistere. Nei libri si leggono definizioni del tipo vittime della società, ma il mondo va avanti anche senza di te. Se vuoi, puoi. Tutto dipende da quanto è grande la tua rabbia. La vita è bella, ho visto anche questo, e voglio vivere tutto. Non è più come quando pensavo che fosse tutto una schifezza. Nel 2000 Giacomo va alle Olimpiadi. Fa un buon torneo, ma non vince. Torna di corsa in Italia per vedere un'ultima volta sua madre che sta morendo. Con lei se ne va il più importante amato tassello della sua famiglia biologica. Una sorella è morta di AIDS nell'89, suo padre alcolizzato se n'è andato nel 90. Il suo passato, anche fisicamente, lo sta abbandonando. Dopo le Olimpiadi di Sydney, Giacobbe passa al professionismo. Fa alcuni incontri e li vince tutti. È forte, duro, non va mai al tappeto. Lui e il suo corpo sono all'apice della forma e della carriera. È in questo esatto momento, quando è lassù in alto, che Giacobbe deve smettere di fare il pugile per la rottura del bicipite branchiale del braccio sinistro a seguito di un montante andato a vuoto. I dottori gli dicono che con quel braccio è già tanto se d'ora in poi riuscirà a portare le borse della spesa. Giacco non si deprime, perché semplicemente non ci crede e non lo accetta. Trova un chirurgo che gli impianta nel braccio un tendine d'Achille di un donatore. Giacco gli chiede se tornerà come prima, se potrà combattere. Il dottore scrolla le spalle e risponde che non è un oracolo. L'unica cosa da fare è rinforzare il braccio, lavorarci sopra. Sarà il tempo a pronunciare la sua sentenza. Il dottore fa intendere che comunque è meglio non farsi troppe illusioni. Dopo un anno, Giacco è di nuovo sul ring a combattere. Il suo match non è ancora finito. Ottavio Tazzi, intanto, ha quasi raggiunto la soglia degli 80 anni. I suoi insegnamenti ai pugili cominciano a diventare più verbali che fisici, ma il nonno ha visto e vissuto tanti di quei combattimenti che 10 delle sue parole valgono 1000 gesti di un allenatore qualsiasi. Lui è semplicemente il maestro e semplicemente spiega l'arte del pugilato. Però è stanco e pensa che sia arrivata l'ora di smettere. Ma Giacco non ne vuole sapere. Il nonno non può ancora mollare. E una sera, in un cinema in cui viene presentato il documentario Senza Tregua sulla vita di Fragomeni, Giacobbe prende il microfono e racconta del suo vecchio maestro che è seduto di fronte a lui in una delle prime file. E mentre parla, quando gli applausi lo interrompono, scende dal palco ad abbracciarlo. Io ho promesso una grande cosa, diventare campione del mondo. Io l'ho promesso e lo diventerò. Anche perché una volta ho fatto un incontro e lui mi fa: niente, sono a posto così, mi piace, per me mi ha dato soddisfazione, adesso me ne posso andare, mi ha detto sto provolone. Aspetta, poi faccio diventare campione e poi te ne puoi andare. It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati vi stiamo raccontando la storia del pugile Giacobbe Fragomeni e del suo maestro Ottavio Tazzi, detto il nonno. È la storia di un'infanzia e di un'adolescenza maledetta che trovano il loro riscatto nella box. Giacobbe sul ring è riuscito a lasciarsi alle spalle i fantasmi del proprio passato, ma senza l'aiuto di Tazzi non ce l'avrebbe mai fatta. Il nonno per lui è una sorta di padre, non è solo un allenatore. E ora che Tazzi vuole ritirarsi, Giacobbe gli chiede di aspettare ancora un attimo. Vuole vincere con lui il titolo mondiale dei massimi. Per un pugile, il titolo di campione mondiale massimi è il tetto del mondo. Oltre non si può andare. E ci vogliono anni per scalare quella montagna. Giacco è partito dallo Stadera con la sua famiglia, che un pezzo alla volta è svanita. La droga, i tossici, lo hanno accompagnato per un tratto di strada. Poi è arrivata la palestra Doria e nonno Tazzi. Lavoro, allenamenti, centinaia di incontri. Un braccio che si spezza e sembra compromettere la carriera. Giacco recupera, si rimette in marcia. Altri incontri, sacrifici, tatuaggi che nel corso degli anni si sommano sulle sue braccia. Giacco arriva portandosi dietro tutte queste cose a un passo dalla vetta. Ci arriva a 39 anni e non ha più molto tempo. Ha questa possibilità, difficilmente ne avrà altre. In un quarto d'ora di incontro capirà se è arrivato davvero in cima. Il match per il titolo mondiale dei massimi leggeri è fissato per il 24 ottobre 2008 al Palalido di Milano, tempio della box meneghina. Mi sento come Rocky Graziano. Ho visto 100 volte il film Lassù qualcuno mi ama. Lui fu capace di conquistare il mondiale nella sua città e nel suo quartiere, Brooklyn. Imitarlo sarebbe oltrepassare i sogni. Rocky Graziano è un pugile newyorkese degli anni 50, riconosciuto come uno dei più grandi boxer di ogni epoca. Nel 1956 esce al cinema il film ispirato all'autobiografia di Graziano, Lassù qualcuno mi ama, con Paul Newman. Narra la storia del campione italo-americano che, attraversando un'adolescenza passata nei riformatori e nei penitenziari, riesce a canalizzare la rabbia in quello che sa fare meglio, combattere. Jaco adora quel film perché ogni volta che lo guarda rivede se stesso e i 1000 ostacoli che ha dovuto superare per arrivare fino a questo punto. Fragomeni si prepara all'incontro della vita con una cura e un'attenzione spasmodica. Trascorre 3 mesi a Formia con Patrizio Oliva a vivisezionare le doti del rivale, il ceco Rudolf Kraj. Sì, sono stato gli occhi di Giacobbe, ma non ho avuto bisogno di troppi video su Kraj. Mi basta sapere l'indispensabile, poi ci pensa Frago. Lo dico sempre, chi lo affronta deve essere preparato oltre il limite, perché lui è un toro che non indietreggia mai, che non ti dà tregua, che ti devasta. Rudolf Kraj è un bestione di 1,90, potente, veloce e ha una decina d'anni in meno di Jaco. Ma Jaco è carico, ha un feroce ottimismo e sente che qualsiasi punto di forza dell'avversario può diventare contro l'ex Gabibbo un punto di debolezza. E per quanto riguarda l'età, sono molto più forte io di testa, perché so cosa significa soffrire. Io ragazzino, io sono un uomo. La sera del 24 ottobre il Palalido è stracolmo. Nel parterre dei VIP riconosci Armani, Vieri e tanti altri. Ci sono anche campioni del passato come Rocky Mattioli e Marvin Hagler. Ma quasi la metà del pubblico è gente dello Stadera, la gente di Jaco. Li riconosci dagli sguardi tesi e eccitati. Li riconosci perché nei loro sguardi, sopra le loro teste, aleggia un senso di rivincita collettiva. Tutto un quartiere si identifica con il suo campione. Comincia il match. I primi 2 round sono di studio. Jaco sta misurando i passi per accorciare la distanza contro un avversario più alto di 10 centimetri. Giacobbe inizia ad alzare il ritmo, decide di aumentare la frequenza e trova le prime combinazioni col destro in uscita. Il Palalido comincia a infiammarsi. Fragomeni lievita nel 3° round. Domina il 4° stanando 4 volte il cieco con il sinistro destro dalla corta misura, per poi farlo barcollare con 2 ganci destri d'incontro. Jaco sta bene, danza sul ring. Sente che potrebbe combattere per ore, per tutta la notte, se fosse necessario. Il suo sguardo è concentrato ma disteso, agli occhi di un uomo in pace con se stesso. Al 6° round, Fragomeni sta per mandare KO l'avversario. Alla 7ª ripresa, una prima testata di Kraj interrompe per un attimo la foga di Jaco. Il cieco non riesce a contenere il ragazzo dello Stadera. 3 minuti dopo, gli tira una nuova testata. Non sa più come fermarlo. E l'arbitro interrompe l'incontro perché dal sopracciglio di Giacobbe esce troppo sangue. Prima del verdetto ufficiale, Jaco aiuta Tazzi a salire sul ring, abbraccia il nonno. I due si dicono qualcosa all'orecchio. Poi Jaco viene richiamato al centro del quadrato. L'arbitro prende le mani dei 2 avversari. Giacobbe dice al nonno di avvicinarsi e il nonno si mette al suo fianco. Vince e diventa il nuovo campione. Just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. Jaco passa la prima notte da campione del mondo a farsi aggiustare in una piccola stanza dell'ospedale San Carlo. Graffette al sopracciglio preso a testate, medicazioni al timpano perforato dell'orecchio destro. Il giorno dopo, però, è già allo Stadera. Non lo dice apertamente, ma ha voglia di tornare tra la sua gente e vedere che effetto fa girare da campione del mondo tra i giardinetti di via Domenico Salvio, la Chiesa Rossa, i binari del 15 Barrato. Hey, sono campione del mondo. Mi sono preso la cintura a casa mia. Un giorno, quando sarò un vecchio alcolizzato da buttare via, nessuno mi potrà dire niente. Ho dato tutto. Sono stato europeo dilettante, ho fatto le Olimpiadi. Ora sono arrivato. Quando mi ha telefonato nonno Tazio mi fa: te lo sei meritato! Ma gli ho detto: oh, non mi morire adesso, eh? Dopo l'incontro al Palalido, Giaco è riuscito a difendere il titolo di campione del mondo nella rivincita con Kraj. Ma quest'anno ha perso a Łódź contro il diavolo Krzysztof Woldarczyk. A 41 anni continua a combattere. Il nonno si è praticamente ritirato. Giacobbe Fragomeni e Ottavio Tazzi hanno passato insieme 20 anni della loro vita. Il nonno ha visto in Giaco il cuore del pugile e gliel'ha mostrato. Il cantante pacifico ha scritto una canzone che si chiama Box a Milano e ha inserito nel testo alcune frasi del nonno. Un modo per sentire ancora pulsare la vitalità di questo straordinario uomo di sport e maestro di vita. Mi ricordo Faini che era un perdente. Quando combatteva Faini dava spettacolo. Quante cose si fanno sapendo che sono uno sbaglio. Quante cose si fanno sapendo di farsi del male. Chissà cosa affascina tanto, chissà cosa piace in un uomo che sbatte alle corde e non vuole cadere. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24. When I left my home and my family, I was...